Smart City, la città intelligente. Buonasera da Maurizio Melis e soprattutto buon anno, bentornati a Smart City. Riprendiamo questa sera la programmazione regolare. Andiamo a Roma, dove lo scorso 12 dicembre al CNR si è svolta una conferenza dal titolo Le emissioni dei materiali da costruzione, la questione della ventilazione e il ruolo delle piante negli ambienti chiusi. Nel corso di questo convegno si è affrontato un tema sistematicamente sottovalutato, quello della qualità dell'aria indoor. C'è una grande attenzione per la qualità dell'aria esterna, i titoli dei giornali sulle concentrazioni di polveri sottili in città si sprecano, ma pochissimi sanno e si occupano del fatto che quasi sempre la qualità dell'aria dentro casa è largamente peggiore. Per parlarci di quanto emerso dal convegno, in linea con noi c'è Rosanna Mabilia, tecnologa dell'Istituto sull'inquinamento atmosferico del CNR. Buonasera Mabilia. Buonasera. Allora, intanto è venuto fuori dalla conferenza che i livelli di inquinamento indoor negli 8 paesi europei che avete preso in considerazione sono alti un po' dappertutto, non ci sono grandi differenze da questo punto di vista. Ecco, quali sono però i composti inquinanti e da dove vengono fuori? Gli inquinanti principali sono essenzialmente le aldeidi e i VOC, i composti organici volatili. In particolare noi abbiamo investigato 8 differenti aldeidi, tra cui la formaldeide, ben nota, che è acetone, acrorina, eccetera, e ben 12 composti organici volatili, benzene, toluene, quelli che abitualmente sono presenti negli appartamenti, nei luoghi confinati. E da dove vengono fuori, appunto? Dunque, generalmente vengono fuori dai materiali, gli arredi essenzialmente. Sì. Che sono costituiti generalmente in materiale in legno, quindi assemblati con colle, vernici, che no? Sono forti emettitori e quindi sì. Bisogna agire essenzialmente su queste sostanze, quindi prediligere queste strutture delle vernici che magari non contengono dei solventi, così pure anche i materiali. Cioè, per esempio, le vernici ad acqua sono meglio delle vernici, certo, no? Ecco, banalmente, no? Un po' tutto quello che ha odore, anche l'odore di pulito in realtà è indice, no? I tipici prodotti sì, per il pulito. Si può dire che tutto ciò che dà odore, tutto ciò che brucia, emette. L'odore di nuovo, no? Di un'automobile, pulito, l'odore sì, di pulito da una bella lustrata, è strana questa cosa, ma sono tutti composti che diciamo benissimo non fanno. Ecco, senta, lei diceva che bisognerebbe appunto utilizzare per esempio vernici ad acqua senza solventi, però in generale bisognerebbe proprio sostituire tutta una serie di materiali che abbiamo dentro casa con altri. Sta avvenendo questo? Io spero di sì, al momento insomma ci sono presenti questi prodotti, però a mio avviso bisognerebbe anche informare il consumatore e dare delle indicazioni, informarli che questi prodotti di arredo, queste vernici eccetera, contengono dei materiali certo. non dannosi. Una qualche etichettatura, qualche forma di etichettatura, insomma, forse sarebbe utile. In questo? Modo che il consumatore può fare la sua scelta. Certo, e questo varrebbe anche per i mobili, per esempio, no? Per gli oggetti costruiti sì. Bisognerebbe fare lo stesso lavoro, che oggi invece non c'è. Ecco, senta, senza cambiare tutti i mobili, uno a casa sua invece che cosa può fare per migliorare un po' la qualità dell'aria? Ma innanzitutto una buona ventilazione, soprattutto appunto tenendo presente che le concentrazioni degli inquinanti esterni sono inferiori, e poi fare attenzione ai sistemi di climatizzazione, quindi sicuramente una buona manutenzione dei sistemi di climatizzazione. Che diventano sennò delle fonti di altro inquinamento indoor, no? Colonie batteriche, cose del genere. Ecco, diceva ventilazione, tra l'altro oggi ci sono questi sistemi che si stanno diffondendo anche nelle abitazioni, sono sempre stati presenti nei grandi edifici, che si chiamano ventilazione meccanica controllata e che recuperano il calore, quindi mantengono ventilato l'ambiente senza disperdere il calore. Ecco, senta, nel convegno avete parlato anche dell'effetto delle piante sulla qualità dell'aria. C'è la convinzione diffusa che la migliorino, no? Sì, sicuramente un miglioramento della qualità dell'aria negli ambienti confinati c'è, però studi approfonditi al riguardo non sono stati ancora fatti finora. Perché ci sono degli aspetti positivi che sono la riduzione della CO2, la produzione di ossigeno e l'assorbimento anche di qualche sostanza inquinante, che avviene sicuramente in alcune piante, però alcune piante emettono anche degli inquinanti, è questo il problema? Non emettono degli inquinanti, emettono delle sostanze che si chiamano terpeni, che di per sé non sono dannosi, ma reagisce con alcune specie, in particolare con l'ozono, dando altre specie inquinanti. Va bene, grazie Rosanna Mabilia, ci fermiamo qui, appuntamento a domani.